Ma questo Petraeus, il capo della CIA, quante ne ha di donne? Altro che il cavaliere Bossi, questo è un vero professionista. Una donna può cambiare la vita, farti dire il paradiso.